you know, I think the shadow of lo spettro del terrorismo incombe sulla politica indiana da tempo e di quando in quando si è manifestato prepotentemente. Ci sono diverse questioni che vanno prese in considerazione. Una è la crescita dell'economia indiana. Ci sono forze che non vedono di buon occhio questa crescita. Poi ci sono le nostre relazioni con il Pakistan che sono collegate a vari fattori nazionali e internazionali. Quello che accade in Pakistan ha una ripercussione qui e viceversa. E poi c'è un altro fatto che non va ignorato. Ci saranno elezioni generali qui in India l'anno prossimo e alcuni hanno interesse a dimostrare che l'attuale governo è incapace di gestire il terrorismo e gli attacchi di gruppi militari. E lei cosa ne pensa dell'azione del suo governo? Quello che mi preoccupa di più è l'intelligence, la condivisione delle informazioni e delle conoscenze. Come hanno potuto forze di tutto il mondo essere all'oscuro di quello che si stava progettando? E le nostre forze di sicurezza che facevano? Dormivano? Questa è stata la prima volta che sono state usate anche pistole, non solo bombe, ed è la prima volta che sono state colpite anche le elite indiane, non solo i poveri. Un tempo l'India era famosa per la coinvivenza di diversi gruppi religiosi. Che ne è stato di quell'armonia? Adesso ci sono gli indù che danno la caccia ai cristiani. Sì, è vero, ma le vittime non sono state solo cristiane, persone povere colpite in luoghi affollati, frequentate da persone di tutte le religioni. Ma questa volta è diverso. Qui c'è certamente la mano di un'organizzazione potente che probabilmente ha addestrato questa gente. È stata un'azione programmata da tempo, non è stata improvvisata. Lei pensa al Pakistan, quindi? Sì, al Pakistan o ad agenzie pakistane, difficile dirlo. Tutti abbiamo subito pensato anche che Pakistan ed India sono due potenze nucleari. La potenza nucleare, sfortunatamente, non ha nulla a che vedere con questo. Sono potenze nucleari, ma quelli che hanno fatto questo non hanno in mano la chiave delle bombe nucleari. Si tratta di agenzie diverse. In Pakistan l'esercito è completamente diverso dall'ISI, servizi di intelligence, ed è l'ISI che fino a questo momento ha nutrito gruppi estremisti. Ora però forse l'armonia con l'ISI non c'è più. Forse con il nuovo governo questi gruppi non hanno più la protezione di cui godevano. Non lo sappiamo. Ma di certo ci sono persone che beneficeranno o almeno saranno soddisfatte di un eventuale collasso dell'economia indiana. E per di più questi gruppi di estremisti che via via vengono scacciati dall'Afghanistan o da altre parti del mondo ora stanno trovando rifugio nel Kashmir e lavoro da fare in India. Quindi vede una specie di spostamento del fronte di guerra verso l'India? Se l'India pensava di non essere coinvolta in quello che accade in Afghanistan, si sbagliava, perché l'India sarà davvero molto coinvolta. Che tipo di reazione chiedono gli indiani al loro governo? Dura? Di guerra? No, vogliono la pace, ma anche sicurezza e protezione della loro vita e delle loro proprietà.